1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci allora, cari ascoltatori, ben ritrovati. Sono qui a leggere i giornali, le 7:22 minuti. Se vi siete svegliati adesso, in realtà siamo come sempre in onda dalle 6:30. E allora vi ricordo che oggi avremo con noi Mario Mauro, che è capogruppo al Senato di Scelta Civica, alle 8:15. È stato anche uno dei 10 cosiddetti saggi che ha lavorato, nominati da Napolitano, per parlare dell'attualità politica. Poi parleremo di un'altra vicenda alle 8:30. Parleremo di Pietro Maso. Ve lo ricordate? Uno degli autori di un doppio delitto dei propri genitori più terribile in Italia. Da oggi è tecnicamente un uomo libero. E ne parleremo alle 8:30. Tra l'altro ci sarà con noi il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha firmato per fine pena la libertà di Pietro Maso. Due genitori uccisi, 22 anni dopo è un uomo libero. Allora ne parleremo più avanti. Allora tuffiamoci nella lettura dei quotidiani. In questo lunedì 15 aprile i titoli, intanto, Il Sole 24 Ore si concentra sulla crisi vista da un punto di vista molto concreto, quello dei tribunali. Sfratti, lavoro, crediti, l'effetto crisi in tribunale. E poi, cari ascoltatori, l'abbiamo sentito anche il giornale radio, la settimana decisiva. Quando sento la settimana decisiva in Italia, decisiva in Italia non c'è nulla da 20 anni. Comunque, è la settimana decisiva per la scelta del Quirinale, del successore di Napolitano? Beh, i giornali, rassegnatevi, cari ascoltatori, parleranno per tutta la settimana con paginate di questi totonomi. Allora, Renzi boccia la linea Bersani, così apre il Corriere della Sera, oppure Repubblica, Renzi boccia Marini e Finocchiaro, La Stampa, Amato Prodi, volata per il Colle, Il Messaggero, Colle PD, Renzi sfida Bersani, L'Unità, Quirinale, i giorni dei veti, Il Fatto Quotidiano del lunedì, che mal di Colle, Il Giornale, tre nomi e un jolly, Il Secolo XIX, Renzi, voglio sfidare io Berlusconi. Insomma, questi sono i titoli, si parla molto di Toto Quirinale. A proposito di Quirinale, c'è un aspetto che viene affrontato dal Fatto Quotidiano, che è questo: ma com'è possibile che tra i 1.007 elettori, sono quelli che dovranno scegliere il successore di Napolitano, 1.007, vale a dire Camera, Senato, più i grandi elettori scelti dalle regioni, ci siano anche molti incompatibili, i famosi incompatibili che sono a tutte le elezioni. Carlo Tecce, a pagina 4 del Fatto, incompatibili, facile dimettersi, ma non lo fanno. Ci sono, fino a qualche tempo fa erano 33 persone che erano, non so, consiglieri regionali o presidenti di regione e sono stati eletti anche al Parlamento, e questo è incompatibile dal punto di vista della Costituzione. Ma non si dimettono. Perché? Perché sfruttano questi tempi. Tanto non è stata nominata la giunta per le elezioni, per la giunta che viene fatta per decidere appunto i casi di incompatibilità. Qualcuno si è dimesso, come Vendola oppure Cota, hanno rinunciato al Parlamento. Ma scrive Carlo Tecce: come possono 33 parlamentari che violano la Costituzione eleggere il supremo garante della stessa Costituzione? Il romanzo Incompatibili, che lo prescritto dall'articolo 122 che vieta di sedere nei consigli regionali e in aula tra Camera e Senato, non trova più spazio, ma non significa che gli incompatibili siano estinti con le plateali dimissioni dei governatori Cota e Vendola. La quota è scesa, certo, ma lo zero istituzionale è lontano. Ci sono persone come Eva Longo, che ha 3 incarichi, Domenico De Siano ha 4 incarichi. A loro hanno scritto, per esempio, per lasciare la regione Campania in favore del Senato, ma invece di spedire la lettera a Napoli, mistero glorioso, l'hanno recapitata a Roma. Non è valido, e quindi hanno fatto un atto non valido. Il sospetto è per prendere tempo. Questo ovviamente non viene detto, ma sorge a tutti. Anche sorge a tutti questo dubbio, anche perché il Fatto Quotidiano scrive: è molto semplice rinunciare a Camera e Senato. Chi vuole può rinunciare con 4 righe scritte al presidente della Camera Boldrino, al presidente del Senato Grasso, e le rispettive giunte di Camera e Senato ne prenderanno atto. Voi direte: ma le giunte non sono state insediate, ma valgono le giunte precedenti che sono in regime di proroga. E perché allora nessuno lo fa? Perché nessuno degli incompatibili, palesemente incompatibili, scrive queste quattro righe a Boldrini e a Grasso? Chiediamo, scrive dice il fatto, al presidente della giunta, presidente Pino Pisicchio, quanti a Montecitorio, per esempio, ne hanno approfittato di scrivere queste quattro righe? Quanti degli incompatibili? Risposta: zero. Sono lì, incompatibili, facile dimettersi, ma non lo fanno. Questo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Questa è la classica notizia per farvi tenere strette le mani sul volante, no? In questo lunedì mattina, o anche strette sulle tazzine. Spero, non ve l'ho detto prima, se vi siete macchiati col caffè, mi dispiace, vi pago la camicia o la maglietta. Allora, intanto c'è la crisi, e questo di fondo lo sappiamo, e voglio fare solo un accenno ad alcuni articoli che troverete sui giornali per poi parlare più approfonditamente dopo la rassegna, dopo la pubblicità, nella seconda parte della rassegna stampa. Per esempio, La Stampa si concentra a pagina 8 con questo titolo: è emergenza suicidi, 8 da inizio aprile, l'ultima vittima è una contabile di Bologna che era senza lavoro da un anno, scrive Falavia Amabile. E 3 giorni fa era scomparsa di casa, non ha retto dopo un anno di lavoro e tra Vallugola e Cabicemare si è buttata di sotto. E 2 giorni fa è stato un uomo di 38 anni a impiccarsi nella sua abitazione di Isola Liri in provincia di Frosinone. Ma un elenco lungo, insomma, da inizio aprile sono già 8 appunto le persone che si sono tolte la vita in maniera supposta legata anche alle difficoltà della crisi. In realtà c'è un articolo su Der Spiegel, settimanale tedesco, che viene ripreso dai giornali, che è molto duro. Der Spiegel scrive, per esempio, La Stampa: non molla, parlate di chi si toglie la vita, ma siete più ricchi di noi. Questa è l'accusa, come racconta Tonia Mastrobuoni, che arriva dalla Germania. Basta piangere, basta lamentarsi della povertà crescente, dei suicidi che c'erano anche prima della crisi, dei populismi in aumento esponenziale. Insomma, i paesi del sud Europa, dice l'infallibile BCE, nascondono le loro ricchezze al nord, di conseguenza è giusto che si salvino da soli. Questa è la sconcertante conclusione, scrive La Stampa, dell'inchiesta che ha ispirato la copertina di questa settimana dell'autorevole Spiegel. E anche Il Secolo XIX dedica una pagina a questo. Tornano i falchi in Germania, la povertà solo bugie, la ricchezza delle famiglie, media delle famiglie secondo la BCE in Italia è più alta rispetto a quella della Germania. Anche il giornale Lo Spiegel ci accusa: in paesi in crisi nascondono i patrimoni. E d'altronde è un'accusa molto forte. Certo, la Germania è la Germania del rigore, la Germania che dice Cipro e il modello Cipro è un modello di salvataggio, cioè di autosalvataggio, e quindi racconta La Stampa: i paesi in crisi nascondono i loro patrimoni, quindi l'autosalvataggio di Cipro deve essere il modello futuro per l'Europa. E come? Insomma, c'è la crisi sicuramente, ma ci piangiamo troppo addosso? Questa è l'accusa che ci piove addosso dalla Germania, dall'autorevole Spiegel. Io sono stato via 10 giorni dall'Italia e mi sembra che non sia cambiato quasi nulla, cioè l'immobilismo totale, al limite un piccolo cambiamento verso il peggio. Comunque, al via la corsa verso il colle. Se volete anche tecnicamente sapere come rinfrescare un po' la memoria, magari tutti non sono avvezzi a queste cose, come si vota il Presidente della Repubblica, pagina 9 del Sole 24 Ore, Antonello Cherchi vi spiega come i 1.007 elettori, grandi elettori, che si riuniranno tutti nell'aula di Montecitorio, e dunque un'aula tra l'altro che è fatta per raccogliere 630 deputati, dovranno stare in 1.007, tutti quelli della Camera, tutti quelli del Senato, più i grandi elettori scelti dalle regioni, come si vota tecnicamente, e anche la cronologia dei settennati. Si va dalle 23 votazioni, il numero degli scrutini per eleggere Giovanni Leone nel 71, fino invece a Carlo Azeglio Ciampi, fu eletto al primo scrutinio nel 1999, e la cronologia dei settennati e la tecnica di come si vota sul Sole 24 Ore. E poi ci sono i nomi, quelli che girano sono i soliti. Allora, pare da Toto Nomine e da Toto Quirinale che salga molto Romano Prodi, così come Franco Marini. così come Giuliano Amato, anzi secondo qualcuno come la stampa sarà un po' un duello tra Prodi o Giuliano Amato, ma poi ci sono anche Sergio Mattarella, Massimo D'Alema, Anna Finocchiaro, Emma Bonino, i nomi sono i soliti. Oggi su Repubblica Matteo Renzi, sindaco di Firenze, scrive una lettera che viene pubblicata in prima pagina, pagina 3, e si scaglia contro chi dice ci vuole un presidente cattolico. Matteo Renzi: caro direttore, nel delicato puzzle che i partiti stanno componendo per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica torna in queste ore prepotentemente in voga l'espressione ci vuole un presidente cattolico, scrive Renzi nella lettera che continua a pagina 3. Non è questa la sede per pronunciarsi sulla possibile scelta, ma mi sembra gravissimo e strumentale il desiderio di poggiare sulla fede religiosa le ragioni di una candidatura a custode della Costituzione e rappresentante del Paese. Faccio outing, sono cattolico, orgoglioso di esserlo e non mi vergogno nel mio battesimo. Ma i politici che si richiamano alla tradizione cattolica sono spesso propensi a porsi come custodi di una visione etica molto rigida. Non c'è peggior rischio di incrociare il cammino con i moralisti, specie quelli senza morale. Personalmente dubito di chi riduce il cristianesimo a insieme di precetti, norme etiche alle quali cercare di obbedire e che il buon cristiano dovrebbe difendere dalle insidie della contemporaneità. Insomma, continua Renzi, mi vergogno da cattolico, prima ancora da cittadino, di una bieca strumentalizzazione. Non mi interessa che il prossimo presidente sia cattolico. Per me può essere cristiano, ebreo, buddista, musulmano, agnostico, ateo. Mi interessa che rappresenti l'Italia, che sappia parlare all'estero, che sia custode dell'unità in un tempo di grandi divisioni, che parli nelle scuole ai ragazzi, che spieghi il senso dell'identità in modo globale, che non sia lì per accontentare qualcuno. Mi interessa che sia il presidente applaudito per le strade come è stato quel galantuomo di Giorgio Napolitano e che sappia dialogare, ascoltare, rispettare, che sia al di sopra di ogni sospetto e al di là di ogni paura. Mi interessa che sia il presidente di tutti e non solo il presidente dei cattolici. Così Matteo Renzi, che dunque pone la questione su un tema che effettivamente spesso si dice, anche qua abbiamo detto, no, Emma Bonino non può essere perché non è abbastanza cattolica. In ogni caso il Toto Nomi impazza. Secondo il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, a pagina 3, il segretario, cioè Bersani, lavora una rosa di tre nomi. I tre nomi di cui proporrà al possibile incontro, perché domani dovrebbe rivedersi con Berlusconi, ma attenzione, qualcuno dice che Berlusconi ha fatto sapere o fa un cenno di intesa in qualche modo, oppure l'incontro può saltare. Quindi si vedranno Bersani e Berlusconi? Non lo so. Iniziamo la settimana con questo imperscrutabile dubbio. In ogni caso, i tre nomi che vorrebbe proporre Pierluigi Bersani a Berlusconi sono Giuliano Amato, Franco Marini e Romano Prodi. Scrive Maria Teresa Meli: l'opinione di Berlusconi su Prodi è nota. Due giorni fa ha detto se viene eletto Prodi bisogna andare tutti all'estero. Ma il segretario del PD, continua il Corriere, punta a inserire lo stesso quel nome per due motivi. Primo, per non attirarsi le critiche dei prodiani del suo partito. Secondo, perché in caso di rottura col centrodestra l'ex premier potrebbe diventare il candidato di PD e SEL al Colle. La vera partita però è che cosa? La vera partita è Renzi-Bersani. Tra poco ci arriviamo, prima però vorrei sottoporvi un altro retroscena, questo ancora più clamoroso, proposto dal Giornale con il direttore Alessandro Sallusti in prima pagina, e cioè questo: e se la sinistra, udite udite, questa è fantapolitica, se la sinistra pensasse di mettere al Quirinale Berlusconi? E voi dite, ma com'è Berlusconi? Ebbene sì, questa è l'ipotesi di Sallusti, secondo il quale, sotto il titolo di prima pagina del Giornale, tre nomi e un jolly, tre nomi sono i soliti, vale a dire Marini, Amato, Prodi. Ma attenzione, scrive Sallusti, per togliere dalla mischia elettorale il pericolo numero uno della sinistra, Silvio Berlusconi, già dato più volte per morto e ora più che mai vivo, potrebbe essere messo al Quirinale. Se Berlusconi dovesse salire al Colle, è certo che il PDL infatti perderebbe il suo punto di forza e, detto senza offesa a Delfini e possibili successori, avrebbe ben poche possibilità di mantenere le posizioni nelle prossime inevitabilmente imminenti elezioni. Dunque Sallusti dice, sembra fantapolitica ma la pratica è stata aperta. Il piano della sinistra sarebbe disfarsi una volta per tutte del berlusconismo promuovendo Berlusconi al Quirinale. Beh, davvero, adesso non lo so, ognuno può dare la lettura che vuole, sarebbe un promoveatur, utamoveatur, per mettere lì Berlusconi al Quirinale per toglierlo dalle prossime imminenti elezioni. Ma tra l'altro sono imminenti? Chi lo sa? Sta di fatto che il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, secondo Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 3, sta già studiando le ipotesi della prossima data del voto. Eccolo qui il titolo: il Viminale studia la data del voto, in luglio possibile nei primi 20 giorni. Il mandato di Napolitano scade il 15 maggio, c'è tutta una serie di calcoli di date istituzionali. Poi ci sono anche, attenzione, i test invalsi fissati per il 20 giugno, dunque gli orali non andranno oltre il 25 dello stesso mese. Diverso il discorso per la maturità, cioè gli studenti dell'ultimo anno sosterranno il 24 giugno, non si finirà prima del 10 luglio, cioè conta anche questo nell'eventuale computo di come, visto che si vota nelle scuole, tra l'altro nei seggi. E allora la data più ipotizzabile, si dovesse andare alle elezioni, nuovamente, potrebbe essere il 14-15 luglio o il 21-22 luglio, quando molti dovrebbero tornare dal mare per andare a votare. Spesso si dice non vada a votare, vada al mare. Qui invece forse c'è la possibilità che dal mare si debba ritornare per andare a votare, una cosa che si fa raramente in Italia, votare intendo, no? E allora dicevamo, la furia in realtà e il vero scontro è sempre più tra Renzi e Bersani. Così titola per esempio La Stampa con Carlo Bertini a pagina 4, e ancora in un retroscena firma Diodato Pirone che trovate sul Messaggero a pagina 3, Matteo disse con Pierluigi ho chiuso. Questo sarebbe addirittura la sensazione, i sentimenti di Renzi nei confronti di Bersani: con questi vertici il PD ho chiuso, sia sul piano umano che politico. Avevo fatto un investimento su Bersani, sull'attuale gruppo dirigente democratico, sono stato leale con loro in campagna elettorale, ma ora mi sento tradito soprattutto sul piano umano. Questo sarebbe lo sfogo di Renzi, continua il Messaggero, mi insultano, mi trattano come un avversario, mi danno del demagogo, ma a Roma devono sapere che il PD è il mio partito, non ci sarà nessuna scissione, semmai io il PD me lo piglio. Questo Matteo Renzi, davvero uno scontro al calor bianco. E cosa succede subito quando c'è questo scontro? Scendono in campo Stefano Fassina, intervistato da Repubblica, Renzi ormai al delirio di onnipotenza, trovate l'intervista a pagina 2, la maggioranza del PD non vuole stare con lui, continua a far prevalere le sue legittime aspirazioni personali rispetto all'interno del paese, mi sembra irresponsabile, è ormai evidente che i sondaggi creino deliri di onnipotenza. Così Stefano Fassina, il più grande avversario all'interno del Partito Democratico nei confronti di Renzi, ma anche l'onorevole Beppe Fioroni, intervistato sempre a pagina 2. Così Renzi continua a mettere costantemente sotto tensione il PD. Il mio invito è fermarsi, perché il punto di rottura dell'equilibrio è vicino, e se si raggiunge non è di scissione che si tratterà, ma di implosione. Insomma, lo scontro tra Renzi e Bersani. Ve l'avevo detto, sono mancato 10 giorni dall'Italia, ma insomma sembra di essere tornati un po' indietro, no? Non ci sono già state le primarie, eppure è così. Un nuovo scontro. Grillo invece accusa e grida dal suo post su Facebook: l'Italia brucia. Grillo contro i partiti che non fanno nulla. Certo, in alcuni giornali come Repubblica fa notare che iniziano le critiche anche sul blog: vi consultate, non fate nulla, la base che dice beh è anche colpa vostra, adesso ci siete anche voi. Sta di fatto che Grillo soprattutto è impegnato con le quirinarie. Oggi verrà scelto il nome proposto tra i 10, tra questi c'è anche Gino Strada, Ferdinando Imposimato, ex magistrato, Milena Gabanelli, ma ci sono anche Beppe Grillo stesso, cioè Romano Prodi, c'è Giancarlo Caselli, procuratore capo a Torino, c'è Rodotà, c'è Zagrebeschi. Chi verrà scelto dalla base, o comunque da questi 50.000 credo più o meno che voteranno il nome possibile che poi i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle dovranno sostenere nell'elezione al Quirinale? E poi la domanda successiva è la più importante: ma si conformeranno a questa decisione i deputati e i senatori, perché tutti raccontano, tutti i giornali, di una sorta di un po' di disagio all'interno della base. Per esempio l'articolo che trovate a pagina 7 di Repubblica, firma Annalisa Cuzzocrea: Prodi e Bonino, meglio Gino Strada, l'imbarazzo dei deputati 5 Stelle, ci sarà oggi l'esito delle Quirinarie, ma la base è spaccata. Insomma, questa è la situazione politica, cioè lo stallo totale. E intanto la crisi avanza. E come si può andare a capire con alcuni numeri concreti che c'è la crisi? Il Sole 24 Ore lo fa andando a spulciare nei 41 tribunali italiani, dove, leggete oggi a pagina 2 e 3, la crisi porta famiglie e imprese in tribunale con... aumentano le richieste per modificare che cosa? Le condizioni di separazione e divorzio, perché magari sono state fissate ma nel frattempo uno dei due coniugi ha perso il posto di lavoro. Frenano invece le istanze per mettere fine al matrimonio, cioè ci si separa meno perché la separazione costa. Crescono costantemente negli ultimi 3 anni e superano quota 170.000 i decreti ingiuntivi per recuperare le somme non incassate dai clienti. Si impenna il numero dei ricorsi per concordato preventivo, un più 112% in 3 anni. Questa è la fotografia della crisi economica che emerge dai fascicoli di 41 tribunali italiani. Ci sono poi tutti i dettagli a pagina 2 e 3 sui fallimenti, sui concordati preventivi, sulle opposizioni alle esecuzioni, sui decreti ingiuntivi, sulle istanze di fallimento, sui concordati con riserva, sui mutui, tutti i dati che fanno capire come la crisi sia molto forte, nonostante, come abbiamo detto all'inizio della rassegna stampa, Der Spiegel ci accusa, insomma, fate un pochino il giochino sporco, cioè state esagerando in Italia, perché la BCE ha attestato che la ricchezza media delle famiglie italiane è superiore addirittura a quella che c'è in Germania. E allora stiamo esagerando? Secondo Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, no. Oggi fa 2 interviste, una al Secolo, XIX, una all'Unità. Dice per esempio al Secolo Bonanni: la politica non è uno sport, i partiti devono trovare un accordo per formare il governo, manca più di 1 miliardo di euro di qui a Natale per gli ammortizzatori sociali di circa 800.000 lavoratori, o trovano questi soldi o il fiume della disoccupazione si ingrosserà rompendo gli argini della coesione sociale. Letta e interpretata vuol dire attenzione, la disperazione, poi se si rompono gli argini e si rompe la coesione sociale si rischia anche qualcosa di ben più serio. E infatti il titolo dell'intervista a Raffaele Bonanni sul Secolo XIX, che trovate a pagina 3, è questo: attenti, il fiume di disperati romperà gli argini. Per quel che riguarda la crisi, questa è la situazione. Voglio andare velocemente all'estero per questa notizia. Udite, udite, ne ha beccato un altro che ha mentito sulla laurea, forse. Vladimir Putin è un copione. Non è che ha mentito, ha 3 lauree intanto Putin. Ma su un master in economia preso all'Università Mineraria di San Pietroburgo, conseguita nel 96, c'è un mistero. Avrebbe copiato tutto. Anche Putin è un copione. Su Repubblica, pagina 16, l'hanno beccato. Una fondazione americana ha visto che interi capoversi, circa il 60% delle 218 pagine della sua laurea in questa università, e almeno 6 diagrammi sono stati copiati pari pari da un manuale di economia americano tradotto in russo nel 94 dall'Accademia del KGB, cioè i servizi segreti passati di cui ha fatto parte Vladimir Putin. Anche Putin ha copiato la tesi di laurea. Cosa farà? Cosa farà adesso? Si dimette Vladimir Putin? Oppure, non lo so, fa un ordine esecutivo per riabilitare tutti quelli che hanno copiato la laurea? Si potrebbe anche fare così, Vladimir Putin. Track, una firma e via.